La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta in diretta alle 16.31 primi e qualche secondo, questa volta dagli studi della Radio Pro di Roma, non di Milano, siamo in trasferta e l'argomento della puntata per intervenire all'800240024 resta obbligatoriamente la Grecia, alla luce degli sviluppi del giorno, di che cosa ne pensate, ve lo ricordo sempre, 349-238-6666 invece per intervenire con gli SMS. Sapete che è in corso, immagino che sappiate, insomma, è in corso un Eurogruppo straordinario, un vertice straordinario con il ministro delle finanze dell'Euroarea e naturalmente la Grecia, che è stato convocato insieme al vertice, da cui non è uscito niente di nuovo ieri, bilaterale tra Merkel e Hollande. Erano attese, o almeno Tsipras aveva dichiarato dopo la vittoria nel referendum di domenica che avrebbe presentato all'Eurogruppo straordinario di oggi proposte nuove, perché bisogna, secondo le sue stesse parole, chiudere un accordo entro 48 ore dal referendum e le 48 ore scadono questa sera. Però mentre siamo in attesa di una conferenza stampa che è stata preannunciata da parte del presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, non è ancora avvenuta, se avverrà mentre andiamo in onda naturalmente ve ne daremo conto. Nella realtà, da quello che è emerso dalle fonti ufficiose dell'Eurogruppo, questa nuova proposta greca non è stata presentata, nel senso che fonti ufficiose del governo greco dicono alle agenzie che la proposta è quella che sabato scorso, prima del referendum, il governo greco ha mandato all'Eurogruppo, che nel frattempo aveva assunto la linea che solo dopo il referendum se ne sarebbe riparlato, quella delle famose 5 obiezioni all'ultimo testo che era stato sottoposto dalle cosiddette tre istituzioni, cioè Unione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Cioè, secondo le fonti ufficiose del governo greco, in realtà non c'è una nuova proposta da parte dei greci. All'inizio dell'Eurogruppo tutte le agenzie e i siti di giornali hanno battuto che in realtà l'argomento dell'Eurogruppo di oggi non è, e su questo c'è la conferma della maggioranza dei ministri delle finanze che hanno parlato prima dell'Eurogruppo, in ogni caso non poteva essere la richiesta greca di ristrutturazione del debito, bensì quello di un piano di finanziamento ponte, perché come avrete capito oramai c'è un tic tac, un conto alla rovescia, e il conto alla rovescia è collegato alla possibilità tecnica che le banche greche possano riaprire. Su questo possano riaprire, che cosa vuol dire? Vuol dire solo l'accesso a una linea di liquidità straordinaria della BCE potenziata? Sapete che ieri la BCE ha confermato a 89 miliardi la linea di liquidità straordinaria grazie alla quale le banche hanno potuto operare finché sono state chiuse poi nel dopo referendum, di cui 89 miliardi la maggior parte è stata utilizzata nei mesi alle nostre spalle. No, non dipende solo da questo. Perché la decisione assunta ieri dalla BCE è stata quella sì di confermare gli 89 miliardi, ma di abbattere il valore residuo del capitale delle banche greche. Il capitale delle banche greche è fatto da titoli del debito pubblico greco, la BCE deve operare in coerenza alle sue regole, cioè non ci può perdere sopra, perché può dare questa liquidità straordinaria solo in caso di banche solventi. Siccome più passa il tempo oramai, più quei titoli greci valgono mark to market, cioè sul mercato, valgono sempre meno, la decisione della BCE di ieri, da pochi compresa sui media italiani, è quella che a questo punto, con questo abbattimento del valore residuo del capitale nella pancia delle banche greche, la realtà è che il giorno che riaprissero, entro 48 ore, siccome quello che resta nella loro pancia di capitale è non più, i conti sono intorno a 12-15 miliardi di euro come valore per darlo in cambio di liquidità nella linea ELA, a quel punto capite che entro due giorni comunque si pone il problema che le banche greche dovrebbero chiudere comunque, non perché manca la liquidità, ma perché non hanno più il capitale. Questo è il problema, è quello che fa il tempo vero di questa trattativa, al di là della politica. E quindi la politica deve decidere se nel frattempo decide un piano straordinario, al di là di una trattativa sulle condizioni, per consentire alla Grecia intanto di avere la possibilità di riaprire le banche, poi ricapitalizzandole, e poi di pagare la famosa rata che scade il 20 di luglio alla BCE, senza la quale la BCE non può andare avanti. Nel frattempo trattare tutto il resto, di qualunque cosa la politica voglia trattare. Ecco, questa è la fotografia allo stato attuale. Per commentare, in attesa delle vostre telefonate e di capire che cosa vi aspettate, L'ospite che abbiamo oggi è un ospite, diciamo così, che ha una pluralità di punti di vista ai miei occhi molto interessanti, perché è Andrea Montanino. Andrea Montanino è stato per anni, è un economista di formazione, ha studiato alla Sapienza, poi London School of Economics, è stato per anni dirigente generale del Tesoro, di grande autorevolezza, ha passato 5 anni alla Commissione Europea, guardando proprio per conto della Commissione Europea quello che faceva l'Italia, è stato direttore esecutivo dal 2012 alla fine del 2014 del Fondo Monetario Internazionale, anche lì responsabile dell'Outlook sull'Italia. Adesso è negli Stati Uniti perché dall'inizio di quest'anno è responsabile del progetto Global Business and Economics all'Atlantic Council. Quindi, insomma, è una persona che per formazione, esperienze e posti internazionali dove state ci porta una pluralità di esperienza per darci un'opinione, insomma, di un certo peso, ecco, di una certa autorevolezza per tutti i posti che ha visto, frequentato e conosce moltissimi dei protagonisti delle vicende che sono in corso. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi in studio. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Allora, innanzitutto, siccome lei è stata in posti che oggi sono poco amati, cioè la Commissione Europea, il Fondo Monetario e così via, dovesse dire lei nel suo bilancio degli errori di questi 6 mesi nella trattativa con la Grecia, come spartisce, diciamo, il peso delle responsabilità, ecco, cosa direbbe? Ma allora, innanzitutto difendo tutte le istituzioni dove ho lavorato, quindi Commissione e Fondo Monetario, che sono considerati cattivi, soprattutto quelli del Fondo Monetario in questo momento. C'è gente di altissimo livello che lavora là e colleghi che veramente fanno di tutto per aiutare i paesi di cui si devono occupare. Ricordo che il Fondo Monetario è come se fosse una banca dove ha dei clienti particolari. Questi clienti sono... Già dice un nome che oggi lo so, che è esattamente. Però sono dei clienti particolari perché sono i 188 stati del mondo e in genere vanno a questa banca quando non hanno altro modo, perché nessuno gli vuole dare i soldi. Quindi vanno in situazioni, chiamiamole così, disperate, e lo scopo dell'istituzione è di aiutarli. Venendo alle responsabilità, io penso che il grosso errore che si è fatto in questi 6 mesi è stato di negoziare sui dettagli di un esborso di denaro che doveva fare sia il Fondo Monetario nell'ambito del suo programma, era la sesta review, diciamo, di un programma fatto di 12, sia l'Unione Europea come ultima tranche del suo programma. La discussione è stata sui dettagli di queste tranche e nessuno ha guardato a che cosa doveva essere la Grecia in 10 anni. Cioè, tutta la discussione era sul breve termine, per aiutare la Grecia in questo momento. Per carità, importantissimo, ma non è che questo avrebbe risolto, o semmai ci sarà un accordo in queste ore, risolverà il problema della Grecia. Né risolverà il problema di questo debito, né risolverà il problema di tutti i soldi che la Grecia deve al mondo, e né risolverà i problemi dell'economia greca, che rimangono sul tavolo. Perché ci vuole una visione di lungo periodo. Perché ci vuole una visione di lungo periodo che è totalmente mancata. E qua, devo dire, una piccola, come dire, pecca sia del Fondo che dell'Unione, della Commissione Europea, è che i tecnici bravissimi hanno una visione legata a come facciamo a recuperare i soldi domani, non come facciamo a mettere in piedi un'economia completamente disastrata e che cosa serve per farlo. Sono approcci completamente diversi, ma lei l'ha visto nelle discussioni dell'ultima 10 giorni, la proposta, la controproposta e la controcontroproposta. Parlavamo di virgole. No, parlavamo di frazioni di aliquote IVA in un paese che ha un'amministrazione tributaria, l'abbiamo detto ieri, però ripetiamolo, come la Grecia, che è virtualmente fallita, dove capite che non è lo 0, di aliquota in più o meno sul tizio caio che cambia, perché ripeto, su 180 miliardi di PIL, cari ascoltatori, 80 miliardi sono di tasse invece messe a ruolo, cioè non stima di evasione, che lo Stato però non riesce a incassare in Grecia. Quindi vuol dire che c'è un'amministrazione tributaria che appunto ha bisogno di anni per potersi rimettere in piedi. Se posso aggiungere su questo, ai tempi in cui ero al Fondo Monetario, io ero rappresentante anche della Grecia, perché l'Italia è nella stessa gruppo, diciamo, sì, essendo un paese più grande, rappresenta anche i greci. E parlando con i colleghi e amici greci, mi diceva benissimo, tutte le volte che il Fondo Monetario va ad Atene, la città e il paese si bloccano per 20 giorni, perché hanno tutti questi ispettori che controllano. Si mettono d'accordo su tutte le belle riforme da fare, finisce tutto, l'amministrazione è completamente incapace di metterle in moto, quelle riforme. Quindi in questi 5 anni di programma si sono fatte tante leggi, tante riforme, tanti decreti, quello che vogliamo, ma poi l'amministrazione non aveva la struttura per poterle implementare. È un problema che noi in qualche misura conosciamo. Non nelle stesse proporzioni, ma che conosciamo, per così dire. Piccolo esempio, perdonate, che l'Agenzia delle Entrate comunichi agli autotrasportatori a 72 ore dalla scadenza, che oggi per la presentazione della dichiarazione dei redditi, poi lo si può fare anche tra un mese pagando una penale, che il 70% delle deduzioni IRPEF degli autotrasportatori sono cassate. Ecco, comunicare una cosa simile a 72 ore dai contribuenti è un altro segnale di un'amministrazione tributaria che non ha molto l'idea di cosa significhi, perché questo significa per migliaia e migliaia di autotrasportatori sbattere la testa contro il muro, vista l'entità degli abbattimenti delle deduzioni. Capita in Italia questo, e non capita in Grecia, capita in questi giorni. Ora, il Fondo Monetario, tanto criticato, in realtà nel negoziato 2 mesi e mezzo fa ha chiaramente detto con la Grecia: guardate cari amici europei, secondo noi, guardando le cose come stanno, effettivamente la richiesta greca di procedere a un'ulteriore ristrutturazione, alcuni ascoltatori chiedono cosa vuol dire ristrutturare un debito, significa protrarre ulteriormente il tempo della sua restituzione e significa applicare un tasso di interesse molto più basso di quello di mercato. Quindi in questa maniera significa rinunciare alla quota interessi di mercato e anche a quota di capitale, cioè significa in realtà tagliarlo il valore del debito. Capite quanto più diluite e quanto più applicate tassi bassi. Alla Grecia dal 2012 noi già applichiamo una diluizione pluridecennale e la Grecia paga di oneri sul PIL di debito il 2,3%, cioè paga la metà, anzi un po' più meno della metà dell'Italia che gli presta i soldi. Questa è l'amara realtà, e ciò malgrado la Grecia chiede altri soldi, e il punto è che noi gliene dobbiamo dare altri soldi, ma noi paghiamo sul debito, pur pagando molto meno di quando c'era la lira, più del doppio di quanto pagano loro, eppure naturalmente non basta loro. Allora il Fondo Monetario ha detto: sta ristrutturazione, cari amici dell'Unione Europea, chiesta da Tsipras è fondata, perché è inutile, come diceva lei prima, è inutile che noi guardiamo 6 mesi l'aliquota 0, dell'IVA, e qui le condizioni sono che loro non possono onorarle queste cose. Però l'Unione Europea non ci sente su questo. La domanda: è stato facile nel 2012 tagliare del 60% il valore del debito che detenevano i privati, perché su quello si è deciso dalla sera alla mattina, quando sono gli stati dell'Unione Europea, i loro veicoli, l'FSF, la BCE, eccetera, lì l'Europa non ci sente. È giusto o sbagliato? Allora, cerco di dire una cosa noiosa in modo poco noioso. Il Fondo Monetario segue delle regole, ok? Seguendo delle regole, tra le sue regole c'è che bisogna fare un'analisi che viene chiamata analisi sostenibilità del debito, in cui si fa un esercizio matematico in cui si vede se quel paese, date le condizioni di crescita, di avanzo primario, di livello del debito, è capace di ripagare il suo debito. Il fondo fa questo prima di prestare i soldi, perché, come dicevo, è una banca a modo suo e deve essere ragionalmente certo che i soldi gli tornano indietro. Allora il fondo sa benissimo, lo sa probabilmente tutto il mondo, che il debito greco non è sostenibile, ma questo lo sa da diversi anni. Se uno va a leggersi i documenti, tutte le volte che c'era una analisi, una review, diciamo, del programma greco, il Fondo Monetario metteva sempre una frase in cui diceva: naturalmente prendiamo nota dell'impegno degli europei prima o poi a risolvere la questione del debito. Quindi c'era sempre quella frase, e questo permetteva ai paesi non europei di votare a favore del programma greco. Dei paesi non europei nel Fondo Monetario, nel Fondo Monetario. Ce ne sono 180 nel Fondo Monetario, perché loro dicono: vabbè, quando sarà il momento gli europei prenderanno. Però gli europei continuano a non vederla sta cosa. Ma adesso, voglio dire, la devono vedere, perché tra l'altro il Fondo Monetario ha reso pubblica questa analisi la scorsa settimana, quindi a questo punto è evidente. Naturalmente, come dire, qui si tratta probabilmente non solo di fare un allungamento delle scadenze, si tratterà proprio di tagliarlo. Esatto. Nettamente significano delle perdite nette per i contribuenti europei. Quindi, insomma, bisogna pensare. Che a quel punto, cari ascoltatori, si giustificano sulla base di una valutazione per la quale il Presidente del Consiglio italiano e quelli degli altri 18 membri dell'Euroarea ritengono ragionevole che ci si rimette di meno a rinunciare a una certa quota del debito attuale della Grecia nei nostri confronti, che crescerà perché dovremo dare altri soldi, ma ci si rimette di meno a rimetterceli di quanto ci si rimetterebbe invece facendola uscire, per effetto delle conseguenze che si abbatterebbero sui membri deboli dell'Euroarea, cioè come noi, eccetera eccetera. Questo esercizio non è dei più facili per la politica, però è questo il punto di fondo. Tutti quelli che dicono diamo una mano alla Grecia dovrebbero essere in grado di dimostrare che ci si rimette di meno meno. Certo, c'è l'ideale politico, ma c'è anche il conto economico a cui guardare, perché non è così facile per un premier italiano dire agli italiani prestiamo di più. E soprattutto non lo è per esempio per il premier estone, cioè per paesi dei membri dell'euroarea che hanno redditi pro capite ancora più bassi dei nostri, ma che non hanno ciò che la Grecia ha, perché i greci vogliono ulteriormente rialzare il reddito minimo da 600 euro dove era sceso a 720, e gli estoni dicono voi siete matti, noi non ce l'abbiamo sta roba qua. Allora la domanda che faccio, la risposta però tra 60 secondi dopo l'interruzione sul traffico stradale, per informazione sul traffico stradale, ma la domanda che faccio a Montanino è: secondo lei, se a questo punto l'accordo non si fa in fretta e con la mancata riapertura delle banche si va a una uscita della Grecia di fatto dall'euro, in realtà i tedeschi e gli altri, convinti che questo sia il minore dei mali, sbagliano economicamente o è una questione politica? Lo so che è una domanda complicata, però gliela devo fare comunque, tra 60 secondi la risposta. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16.49 e 16 secondi. Stiamo parlando con Andrea Montanino, che è stato direttore esecutivo del Fondo Monetario, alla Commissione Europea 5 anni, dirigente generale del Tesoro. Adesso sta all'Atlantic Council negli Stati Uniti. Di quello che avviene, non è ancora avvenuta la conferenza stampa dell'Eurogruppo straordinario con Dijsselbloem, che ne è coordinatore, che ci deve dire che cosa è avvenuto, qual è il punto di oggi. Comunque tutte le indiscrezioni parlano di un dibattito intorno al programma ponte di aiuti, senza di cui la Grecia non può riaprire le banche, quindi siamo lontani da entrare nel dettaglio delle possibili condizionalità di questi aiuti. E i giornali greci sui siti scrivono che comunque la proposta di Atene, come avevo detto all'inizio, è quella di sabato scorso, cioè quella le 5 obiezioni all'ultimo testo Juncker, niente di nuovo, come se il referendum non fosse avvenuto, molto singolare, no? Da questo punto di vista. Allora, abbiamo fatto il Consiglio europeo, nel frattempo il servizio stampa ci informa che la riunione dell'Eurogruppo appunto è appena finita, quindi Dijsselbloem dovrebbe parlare entro i prossimi 10 minuti. Allora, io le ho chiesto a Montanino, ma se poi succede un Grexit di fatto sulle banche, cosa ci impedisce di credere che siano la maggioranza dei membri dell'Eurogruppo, cioè la posizione tedesca, a ritenere ci si rimette di meno ormai a sbatterli fuori? Ma guardi, è difficile veramente dire se ci si rimette di più o ci si rimette di meno, e credo che qui gli elementi politici diventano più importanti di quelli economici. Cioè il tema è: qual è la visione dell'Europa del futuro? Un'Europa a 28 paesi in cui comunque si sta tutti dentro qualunque cosa succede, perché voglio dire, se l'Europa e l'Eurozona è un progetto di lunghissimo periodo, non possiamo pensare che non ci sarà un altro caso Grecia nei prossimi 30 e allora anni. Però bisognerebbe scrivere regole per fare le ristrutturazioni del debito eccetera, cioè erga omnes, non perdere un anno caso per caso. Assolutamente, bisognerebbe scrivere regole chiare per come si esce dall'euro e come si rientra eventualmente. Esatto. Ma il discorso, adesso sentiremo se veramente si è discusso di un prestito ponte. L'idea del prestito ponte è esattamente questo, cioè abbiamo perso 6 mesi a discutere, non siamo stati in grado di trovare nessuna soluzione, non vogliamo abbandonare la Grecia e troviamo una modalità. Poi un prestito ponte che cosa significa? Prestiti bilaterali dei paesi, perché non vedo le istituzioni europee che potranno farle, quindi un segno di solidarietà verso la Grecia, che va benissimo, ma un'incapacità di prendere una decisione. Esatto. In 6 mesi, ricordiamoci che si è iniziato a discutere il 20 febbraio in realtà. Oh, da questo punto di vista la credibilità dell'euro per lei è legata al fatto del mito del fatto che sia una moneta prigione, che a differenza di tutte quelle della storia dove si entra e si esce a seconda di quello che capita, per paesi membri di aree monetarie non ottimali, per usare la definizione di Bob Mandel, però nella storia succede così. L'euro per la prima volta dice no, questo è un progetto monetario in cui si entra ma non si esce. È credibile? Secondo me non è credibile. Ah, ecco. Secondo me non è credibile, ma non c'è niente di male, questo voglio dire. Cioè, ripeto, noi siamo dentro un'area valutaria dove ci sono differenze tra paesi molto grandi, e queste differenze rimarranno, soprattutto perché stiamo parlando di 19 paesi per l'area dell'euro, con differenze. Rimarranno anche perché se si tengono separati i mercati del lavoro, dei beni e dei servizi, non funzionano come vasi comunicanti. Negli Stati Uniti, che tutti dicono, negli Stati Uniti sì che funziona, perché la Fed ha un mandato diverso dalla BCE. Sì, ma funziona soprattutto perché i mercati del lavoro, dei beni e dei servizi comunicano e quindi autoequilibrano i prezzi e i costi, che sono diversi nei diversi paesi. Cioè non è che tutti i membri degli Stati e degli Stati Uniti vanno all'unisono nel ciclo economico, però lì hanno un principio di basi comunicanti, noi non ce l'abbiamo. Sì, però ci sono due elementi che loro non hanno. Il primo è che noi parliamo lingue diverse e per i prossimi 50 anni parleremo lingue diverse. Aiuta, sì. E secondo, veniamo da culture molto diverse, cosa gli americani ovviamente non hanno, quindi rimarremo sempre differenti e dobbiamo quindi prevedere meccanismi di entrata e uscita non traumatica. Cioè il caso della Grecia, secondo me, deve essere un caso gestito con un'uscita e poi una convergenza, come tutti i paesi dell'Unione Europea che non sono nell'euro, sono in un processo di convergenza. Nel frattempo una dichiarazione piccatissima del ministro delle finanze spagnolo Luis de Guindos, che dice finito l'Eurogruppo, non c'è stata proposta greca, abbiamo parlato di cose generali, ma io penso che noi non abbiamo più tempo da perdere. Quindi capirete che gli spagnoli del governo Rajoy non li sopportano più queste maniera di fare di Tsipras, l'ho interrotto. No, ma questo punto è fondamentale per capire cosa succederà nelle prossime ore. Cioè adesso Tsipras si trova in una situazione complicatissima, cioè deve mettere sul tavolo una proposta che accontenta i greci, che hanno votato chiaramente in un certo modo, e deve accontentare gli europei, che la pensano in maniera diversa. Come metterà insieme queste due cose? Secondo me è impossibile. Altro dettaglio dalle agenzie, si prende che il premier greco Tsipras avrà un incontro ristretto con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande. Tenete conto che Tsipras, che si era unito alle proteste anche italiane contro la diarchia franco-tedesca e diceva bisogna sentire tutti i paesi europei, adesso è il primo che naturalmente dice la diarchia e non le altre voci europee, compresa l'Italia. Quindi le contraddizioni si sprecano, per così dire. E questo ci fa dire che probabilmente appunto la discussione di oggi è stata probabilmente inutile, perché si ritorna a incontrarsi Evviva. A tre come si sono incontrati ieri sera a cena. Evviva. Quindi che ormai non so cosa si continueranno a dire, intorno a che cosa stanno ruotando queste riunioni, perché appunto i giorni mancano, pochissimi giorni, e le banche prima o poi devono riaprire. Giuseppe da Bologna, come la pensi, Giuseppe? Giuseppe è collegato? No, mi pare di capire che me l'avete messo, ma non c'è la telefonata di Giuseppe. Allora, cari ascoltatori, lo so che è un pochino, per così dire, frustrante non darvi notizie, però come avrete capito non si esce da un impasse di sei mesi se non con qualcuno che dice che bisogna assumere una prospettiva lunga. O facciamo la scommessa che l'euro non si tocca, e questo significherà dare molti soldi per diversi anni ai greci in una prospettiva di lungo periodo, oppure, ragazzi, c'è un tic-tac, perché le banche comunque così non possono riaprire, perché dopo 36 ore qualcuno deve ricapitalizzare. La Grecia non può, ma comunque sarebbero fuori dall'euro, perché la BCE a quel punto non potrebbe fare più niente. E lo so, però nel frattempo il nostro tempo è scaduto e quindi non posso più mandare in onda telefonate. Io ringrazio Andrea Montanino, vedremo nel seguito, naturalmente continuate a stare su Radio 24, appuntamento con me a domani. Stasera sono anche a Ballarò.